GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Nodo medici di base, servizio sperimentale a Sugi per assistere i cittadini scoperti. A Trieste saranno 30.000. Aumento in busta paga per 3.000 dipendenti dell'azienda sanitaria Friuli Centrale, fondo da 2.800.000 euro. Stop allo sconto nazionale delle accise sui carburanti, il pieno in Slovenia tornerà ad essere conveniente, i timori dei gestori. La mappa delle feste di piazza tra le città capoluogo, fuochi solo a Trieste e Gorizia, petardi vietati quasi dappertutto, così come vetro e alcolici. In montagna un capodanno sulla neve, operative tutte le stazioni sciistiche, ma manca neve alle quote più basse. Basket, Trieste annuncia l'accordo americano con il 90% delle quote al gruppo CSG e la Pudine esonera coach Bonicioli. 7:19 minuti di sabato 31 dicembre, buongiorno da Maria Spezia, Rita Micoli. In apertura uno sguardo al meteo, il cielo è nuvoloso sulla regione. Le temperature registrate alle 6 a Trieste 11 gradi, a Gorizia 9, a Udine 8 gradi, a Pordenone 5, a Tolmezzo 6 gradi e 5 decimi, sul Piancavallo 1 grado, a Forni di Sopra 3, a Tarvisio 5 gradi, a Sappada 5 decimi di grado negativi. Su Monte Lussari e Monte Zoncolan 5 decimi di grado sopra lo zero, sulla costa Lignano 9 gradi e 5 decimi, a Grado 10 e mezzo. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: sulle Alpi in Carni e Prealpi Carniche verso il Cadore ci sarà cielo poco nuvoloso o variabile, sul resto della regione è previsto cielo in prevalenza nuvoloso con foschie e nebbie possibili, ma non si esclude qualche locale schiarita. Temperature alte per il periodo, oltre i 1500 metri di quota, dove il cielo sarà ovunque sereno, lo zero termico sarà oltre i 3000 metri di quota. Nel notiziario subito la cronaca con un gravissimo incendio a Udine. Questa notte intorno alle 2 a Pasian di Prato è scoppiato un rogo in una palazzina di via Santa Caterina che ha coinvolto il secondo piano e il tetto dell'edificio, causando danni anche al primo piano della costruzione. Pesantissimo il bilancio del rogo. I vigili del fuoco di Udine intervenuti sul posto confermano la morte di uno dei minori di nazionalità albanese che erano ospitati all'interno della costruzione in cui opera una onlus attiva nell'affidamento di minori. Sono inoltre stati gravemente ustionati il direttore dell'ente, oltre a un altro dei minori ospitati all'interno, di nazionalità ghanese, che ora è ricoverato al centro Grandi Ustionati di Verona. L'allarme è stato lanciato da dei vicini, ancora non note le cause delle fiamme. Daremo aggiornamenti nelle prossime edizioni del giornale radio. Passiamo ai temi della sanità. Emergenza, medici di base ieri a Trieste, il lungo confronto tra Asugi e sindacati di categoria. Solo nel capoluogo giuliano nei prossimi mesi saranno 30.000 le persone che si ritroveranno senza assistenza. Asugi nei giorni scorsi aveva ipotizzato di elevare il tetto degli assistiti, ma la levata di scudi dei sindacati dei camici bianchi aveva bloccato l'iniziativa. Nell'accordo raggiunto è previsto il superamento del tetto di 1.500 pazienti fino a un massimo di 1.800 per medico, ma solo su base volontaria e a fronte di un corrispettivo economico che sarà riconosciuto da gennaio a chi ha già alzato il prossimo massimale in dicembre. Con la fine dell'anno cessano di esistere le USCA, le unità di continuità assistenziale, i team sparsi sul territorio che fino ad ora hanno offerto assistenza e cure domiciliari a chi era affetto da Covid. Sparisce una sigla e un'altra compare. ASAP sta per Ambulatorio Sperimentale di Assistenza Primaria. Dal 1 gennaio coprirà le esigenze, o cercherà di farlo, di quanti si ritroveranno senza medico di base. L'accordo fra Asugi e i sindacati dei medici di famiglia è stato siglato. A sollecitarlo gli stessi medici di medicina generale. Solo a Trieste nei prossimi mesi infatti ci saranno 18 medici di base in meno fra rinunce e pensionamenti. Significa 30.000 persone senza assistenza e nella quasi impossibilità di prendere un altro medico, visto che sono praticamente tutti già al limite del tetto massimo di 1.575 assistiti. Asugi nei giorni scorsi aveva ipotizzato di elevare il tetto, ma la levata di scudi dei sindacati sindacati dei camici bianchi, l'ha bloccata. Più pazienti significa meno qualità del servizio e siamo già al limite, spiega Matteo Picerna, responsabile per Trieste e Gorizia del sindacato autonomo dei medici. In una giornata tipo devo rispondere in media a 100 telefonate, leggere un'ottantina di mail e visitare in studio una ventina di pazienti. Da qui il supporto dell'ASAP, strutturato al momento su 4 medici, 2 a Trieste, 1 a Gorizia e 1 a Monfalcone. Su di loro, fra le 8 e le 20, rimbalzerà hanno anche le esigenze di quegli ammalati che necessitano di visite urgenti, seppur non in pronto soccorso, ma a cui il medico di famiglia, bloccato in studio, non riesce a dar riscontro. Antonio Caiazza, Trieste, TGR Friuli Venezia Giulia. L'azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale ha approvato le graduatorie per gli aumenti dei dipendenti. Il decreto riguarda il 49,99% dei dipendenti aventi titolo per un totale di oltre 3.000 operatori. Si tratta di 2.800.000 euro in totale con decorrenza dallo scorso 1 gennaio. L'aumento medio lordo mensile è compreso tra i 32 e gli 86 euro. E da domani, 1 gennaio, aumenta il prezzo dei carburanti, termina con oggi infatti lo sconto nazionale delle accise, così il pieno in Slovenia tornerà ad essere più conveniente il servizio. Va in archivio lo sconto nazionale delle accise sui carburanti già ridotto a inizio dicembre. Il 2023 si aprirà con un rincaro di 18 centesimi al litro per diesel e benzina, ma molti automobilisti non ne sanno ancora niente. No, non ho letto. Come mai? No, sinceramente no, non sapevo. Sarà un guaio perché si alzeranno tutte le spese della famiglia e questo è il problema. Lo sconto era stato introdotto dal governo in primavera per abbassare i prezzi, allora ben sopra i 2 euro al litro. In Friuli Venezia Giulia l'effetto rischia di pesare soprattutto sui distributori di confine. Per chi possiede la tessera e abita appunto nei comuni della fascia 1, a partire dal 1 gennaio la Slovenia sarà più economica di 25-30 centesimi per la Super, di una decina di centesimi per il gasolio, mentre la differenza è più limitata con l'Austria. Una mano ulteriore dovrebbe arrivare durante il mese di gennaio dalla regione con un nuovo sconto di massimo 10 centesimi per la neonata fascia 0 che include i comuni entro i 10 chilometri dal confine. Le categorie confidano però che non torni il pendolarismo del pieno. Bruno Bearzi, presidente nazionale Figisc Confcommercio. Ci auguriamo che gli utenti continuino a privilegiare la rete regionale, anche per questo accaduta poi porta risorse a tutti i cittadini del Friuli Venezia Giulia. Quindi ci auguriamo insomma che la cosa sia abbastanza contenuta. La fine degli sconti sulle accise non è l'unica novità del 2023. Comincia infatti il pensionamento della tessera classica che sarà affiancata da un'app sul telefono e, per i meno tecnologici, da un codice QR stampabile, proprio come succedeva con il Green Pass. La tessera fisica scomparirà definitivamente nel 2024. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Diversi mesi dopo aver contratto il virus SARS-CoV-2, il 25% dei pazienti soffre ancora di sintomi da cosiddetto long COVID. Il rischio di sintomi persistenti per più di 200 giorni si associa poi, oltre che con l'età avanzata, anche con storie di depressione. Il long COVID potrebbe insomma essere in parte spiegato da condizioni psicologiche preesistenti. Questo è il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Life e realizzato su un gruppo di malati di Trieste e Gorizia dal Dipartimento di Prevenzione della SUGI. Lo studio ha valutato la persistenza dei sintomi per più di un anno in popolazioni in età lavorativa durante la fase iniziale della pandemia, quando circolavano varianti più gravi e la maggior parte delle persone non era ancora vaccinata. Al primo follow-up, 49 giorni dopo la diagnosi, i sintomi più frequenti erano astenia, mancanza di respiro, deficit di concentrazione, mal di testa, dolori muscolari e perdita dell'olfatto. Al secondo follow-up, la persistenza di sintomi oltre 6 mesi dalla diagnosi è risultata aumentata con la depressione e con l'età. Fine anno, tempo di bilanci anche sul fronte della sicurezza e dell'ordine pubblico. Sentiamo allora com'è andato questo 2022 a Pordenone. Nel servizio l'intervista al questore Luca Carocci. Vedo una città sicura, dove i reati sono molto al di sotto della media nazionale e dove intensa è la collaborazione tra la popolazione e le forze dell'ordine. Così il questore di Pordenone, Luca Carocci, ha voluto sintetizzare, durante il tradizionale incontro di fine anno con la stampa, la situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel capoluogo della destra Tagliamento. Un contesto, quello del 2022, nel quale l'attività della Polizia di Stato si è concentrata soprattutto sulla prevenzione e sul controllo del territorio, attraverso oltre 500 servizi di ordine pubblico, l'arresto di 38 persone, di cui 16 in flagranza di reato, 486 quelle denunciate e 27.000 quelle identificate. Un impegno grazie ai 1.824 agenti della Questura e delle altre forze di polizia. Luca Carocci, questore di Pordenone. Quando si fa sistema coinvolgendo tutti gli attori che devono partecipare al mantenimento della sicurezza nel territorio, quindi le forze dell'ordine, ma anche i vigili del fuoco, le polizie locali, ovviamente il risultato non può che essere migliore. Nell'ultimo periodo dell'anno si è registrato un notevole aumento di furti negli appartamenti, mentre rimane costante il monitoraggio, soprattutto tra i giovani, sullo spaccio e sull'assunzione di sostanze stupefacenti. Sono fenomeni che ancora riusciamo a tenere sotto controllo, che ovviamente colpiamo laddove c'è da colpire, ma che ovviamente devono dare in noi grande attenzione e grande sorveglianza. Anche nel 2023 la Questura di Pordenone vedrà l'arrivo di nuovi agenti. Il Ministero da quest'anno ha adottato un piano di potenziamento che ha visto l'arrivo di oltre 10 agenti qui alla Questura di Pordenone, anche per compensare i pensionamenti. Nel 2023 sarà sulla stessa linea. Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. I sindacati interregionali italiani, sloveni e croati si sono incontrati sull'ex confine sloveno-croato di Castelvenere per celebrare l'ingresso della Croazia nell'area Schengen a partire da domani, 1 gennaio 2023. Un evento importante per i lavoratori transfrontalieri, per i quali tuttavia permane ancora un quadro giuridico incerto. Sentiamo le interviste realizzate da Niki Filipovic a Michele Berti, presidente del sindacato interregionale italo-croato, e a Roberto Treu, presidente del sindacato interregionale nord-est FVG. La sicurezza sociale con gli assegni sociali, l'assegno unico universale, la tassazione con gli aspetti che purtroppo ancora costituiscono doppia imposizione, e quindi questo è un tema su cui noi continueremo a impegnarci. Però oggi è una giornata importante, perché il 1 gennaio comunque la vita dei lavoratori frontalieri si semplifica. Questi lavoratori che d'estate sono costretti a fare delle file anche lunghe per raggiungere il posto di lavoro o per tornare a casa, dal 1 gennaio non dovranno più sopportare questo ulteriore supplizio. Tutta quest'area si riunifica ed era un'area storicamente piena di mobilità fra le persone. E adesso si apre, come si era aperto con la Slovenia, un nuovo percorso. Deve essere un percorso che porta davvero a una maggiore integrazione economica e pertanto progetti come quello del JEC che possono portare risorse, idealità e uno sviluppo diverso in queste aree intrecciate fra i tre paesi. Ed ora andiamo in montagna, operative tutte le stazioni sciistiche, modificate però le aperture delle piste in alcuni comprensori per mancanza di neve alle quote più basse. Dal scorso 26 dicembre Promoturismo FVG registra una presenza quotidiana di almeno 15.000 appassionati sulle piste. In questi giorni i comprensori più gettonati sono stati quelli di Tarvisio, Zoncolan e Piancavallo. A Piancavallo rimane chiusa solo la pista Salomon, tutto aperto, a Sappada, Forni a Voltri, a Forni di Sopra, chiuse le piste Cimacuta, Cimacuta Bis e Davost Sud. A Sauris rimane chiusa la pista Zeile, quasi tutto a regime, anche a Ravascletto Zoncolana, eccezione della Tamai 2. Operativa la nuova pista di sci di fondo dello Zoncolan, lunga 2 km 200 metri, a quota 1750 metri. A Tarvisio aperte l'intera di Prampero, la Rio Argento, le piste dell'Angelo, Duca d'Aosta, Florianca, Foresta e Malga. Aperti il campo scuola, il parco giochi, il bob su rotaia, l'anello di fondo dell'Arena Paruzzi e il circuito di fondo della Val Sizera. A Sella Nevea tutti gli impianti sono in funzione, le piste percorribili. Per tenersi aggiornati sulle aperture degli impianti e delle piste è possibile consultare il sito Infoneve su www.turismofvg.it. Ed è conto alla rovescia per il Capodanno 2023, molto atteso il ritorno delle feste in piazza, tra musica, fuochi d'artificio e regole da rispettare, i programmi nei quattro capoluoghi della regione. Nelle piazze della regione si ritorna a festeggiare il Capodanno, fra musica dal vivo, fuochi pirotecnici anche se non dappertutto e le necessarie misure di sicurezza. A Trieste, sul palco allestito in Piazza Unità, un medley dei più grandi successi di musica leggera italiana e internazionale e a mezzanotte il via allo spettacolo pirotecnico dal Molo Audace. Confermate nella riunione del Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, presieduto dal prefetto Annunziato Vardè, le regole per l'accesso alla piazza, che sarà controllato da steward e contapersone per non superare il limite massimo di 10.000 presenze. Un numero importante di agenti delle forze di polizia e della polizia locale sarà impegnato sia in piazza per prevenire episodi di criminalità o di intemperanza, sia sulle principali arterie stradali e nei pressi dei locali pubblici per contrastare gli incidenti. Dalle 21 del 31 dicembre alle 2 del giorno dopo si potrà utilizzare materiale pirotecnico, ma non petardi, su tutto il territorio comunale, esclusa l'area dei festeggiamenti. Vietato invece portare in piazza oggetti pericolosi, bevande in lattina e contenitori di vetro, con la sola eccezione dei due pubblici esercizi che vi si affacciano. Ordinanze relative a vetro e alcolici sono state emanate anche nelle altre città in cui si festeggia in piazza. Niente fuochi pirotecnici in Piazza Libertà a Udine, dove si accoglierà il 2023 con musica, animazione e il saluto istituzionale dalla Loggia del Lionello, e in Piazza 20 Settembre a Pordenone, dove si ballerà con i DJ Lino Lodi e Stefano Mango. Spettacolo pirotecnico a basso impatto acustico, infine a Gorizia. La festa sarà in Piazza della Vittoria, con divieto per chiunque di utilizzare materiale pirotecnico. Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Niente fuochi artificiali a Lignano, ma la festa si farà comunque con musica e brindisi in Piazza Fontana a partire dalle 22. A Palma Nova invece è previsto uno spettacolo pirotecnico in Piazza Grande che ospiterà anche quest'anno i festeggiamenti per il nuovo anno. Oltre al tradizionale spettacolo di mezzanotte con oltre 3.000 fuochi d'artificio, dalle 21 sotto la loggia di Piazza Grande, Avant Art proporrà Macchie dell'Anima, spettacolo che coniuga arte e musica. No ai botti anche a Cervignano, su ordinanza del sindaco, la festa in città inizierà alle 20. E per chi ha scelto di trascorrere invece la notte di San Silvestro proprio sulle cime del Friuli Venezia Giulia, quest'anno sono in programma tra gli altri appuntamenti la fiaccolata di fine anno con fuochi d'artificio a Sappada e quella di Forni di Sopra, come anche il lancio da Scidulas a Ovaro, il volo delle rotelle infuocate. Per il 1° gennaio invece l'appuntamento sarà a Tarvisio, a Camporosso, dove la fiaccolata dell'Ussari ritorna dopo 2 stagioni di stop per festeggiare la 50ª edizione e dare il benvenuto all'anno nuovo con la discesa degli sciatori lungo la pista di Prampero, circa 3,5 km di lunghezza con gli abiti della tradizione e una fiaccola in mano. L'arcivescovo di Trieste, Monsignor Giampaolo Crepaldi, in occasione della conclusione dell'anno civile, presiederà la Santa Messa a Trieste nella chiesa parrocchiata della Beata Vergine del Soccorso, cioè Sant'Antonio Vecchio, alle 18:30. Al termine verrà cantato il tradizionale inno Te Deum a conclusione dell'anno civile. L'arcivescovo di Udine, Monsignor Andrea Bruno Mazzoccato, presiederà alle 19 la Santa Messa in cattedrale con il canto del Te Deum di fine anno. Il vescovo di Gorizia, Carlo Roberto Maria Redaelli, officerà alle 18 a Sant'Ignazio la messa di ringraziamento a chiusura dell'anno civile. Il rumore dei fuochi d'artificio e dei petardi di fine anno è una vera sofferenza per gli animali domestici, vittime di una forte angoscia causata dall'impossibilità di comprendere l'origine del forte e improvviso rumore. Ne abbiamo parlato con Chiara Dorini, veterinaria a Zugliano. In occasione del fine anno i nostri animali sono sottoposti a grandissimi stress proprio per questi rumori molto forti, tant'è che alcune statistiche descrivono un aumento fino al 100% della incidenza di cani che scappano di casa, cani che possono incorrere in traumatismi nell'uscire, insomma, nel essere liberi per caso in stato di estrema agitazione e ansia. Cosa possiamo fare per aiutarli? Sicuramente quello di gestire la giornata dell'ultimo dell'anno, quindi portarli a passeggiare in orari lontani dalla mezzanotte, quindi magari durante il pomeriggio o prima di cena. Un altro accorgimento ambientale che si può fare per abituarli o farli percepire in modo meno intenso i rumori è quello di accendere, tenere accese la TV, la radio. Ci sono anche dei canali YouTube dedicati alla musica rilassante per cani, tenere accese le luci di casa, cercare di lasciare al cane la disponibilità degli spazi di casa, anche quelli che generalmente sono tabù, proprio perché in una situazione di grande ansia e grande stress il cane o il gatto deve potersi rifugiare nel posto che preferisce per sentirsi più a suo agio. Lo stesso stress si registra anche nei gatti? Sì, anche loro sono assolutamente stressabili, non hanno le stesse manifestazioni che hanno i cani, però si sono verificati incidenti anche con i gatti. I gatti possono essere, oltre che spaventati, anche magari incuriositi da eventuali botti o petardi inesplosi, andare lì ad annusarli, quindi ci possono essere anche degli incidenti traumatici proprio dalle gatti a dei botti inesplosi. Per cui assolutamente, soprattutto nel caso di gatti che vivono sia fuori che in casa, cercare di farli rientrare abbondantemente prima della mezzanotte. È affidata anche quest'anno all'Orchestra Filarmonica di Kharkiv, di cui in sottofondo state ascoltando l'esibizione di dicembre 2021 a Pordenone. L'evento musicale di fine anno della città friulana, giunto alla 42esima edizione, considerata come auspicio di pace, come segno concreto di solidarietà, l'esibizione della prestigiosa formazione ucraina fondata nel 1932 e composta da un organico di oltre 100 elementi, sarà guidata dal maestro Yuri Janko, mentre il violoncellista solista Daniele Squittieri, già primo violoncello degli Archi di Santa Cecilia, affiancherà l'orchestra in concerto. Il programma prevede due capisaldi del repertorio sinfonico, con il concerto per violoncello e orchestra in si minore, opera 104B-191 di Antonín Dvořák, e la sinfonia numero 4 in la maggiore, opera 90 italiana di Felix Mendelssohn, arricchite dal fuori programma con musiche della famiglia Strauss. Appuntamento a Pordenone, al Teatro Verdi, alle 16. Altri appuntamenti con le musiche di Verdi, Rossini, Puccini, Leoncavallo, Bizet, Rachmaninoff, Strauss e Offenbach sono in programma per il San Silvestro del Teatro Verdi di Trieste, diretto dal maestro Pietro Rizzo e con maestro del coro Paolo Longo, soprano Marian Battistelli, tenore Riccardo Della Sciucca. Appuntamento alle 18. La Strauss Festival Orchestra di Vienna proporrà partiture della famiglia Strauss di Franz Lehár, Franz von Suppé, Karl Michael Zierer a Udine al Teatro Nuovo alle 18. 20 di festa e il concerto conclusivo di fine anno dell'Accademia d'Archi a Rigoni, diretta da Filippo Maria Bressan, che proporrà pagine di Mozart, Haydn e Rameau a San Vito al Tagliamento all'Auditorium Comunale alle 19. Il calendario della 22esima edizione di Rassegna di Canti Nativitas prosegue con l'esecuzione del tradizionale Te Deum a Trieste nella Chiesa della Beata Vergine del Rosario alle 18. Gli spettacoli per il tradizionale appuntamento del Capodanno a teatro, la nuova produzione della compagnia Anatema presenterà il suo ultimo lavoro, Come Thelma e Louise, in cui si parla di due anziane signore che decidono di vivere una nuova avventura, a Osoppo al Teatro della Corte alle 21.30. Metaverso di Capodanno è lo spettacolo Die con Flavio Furian, che sarà in scena per festeggiare l'anno nuovo a Trieste al Teatro Bobbio alle 21.30. Ed ora lo sport con il basket. In primo piano, la Pallacanestro Trieste ha annunciato ieri la firma dell'accordo vincolante per la cessione del 90% delle quote societarie al gruppo americano CSG Cotogna Sports Group entro gennaio. Il restante 10% resterà in mano ad azionisti locali. CSG è composta da un gruppo di investitori americani con esperienza e competenze nel mondo sportivo ed uno speciale focus nel contesto NBA. A gennaio, con l'acquisizione, sarà nominato un nuovo CDA in occasione della visita a Trieste dei vertici del gruppo, che interverrà con capitali propri e con fondi di investitori diretti. Nell'ultimo anno abbiamo analizzato il mercato del basket europeo, ha fatto sapere Richard De Meo, fondatore del gruppo, e Trieste ha detto alle caratteristiche per avviare nostro progetto, che prevede una crescita graduale della Pallacanestro Trieste puntando alla partecipazione alle coppe europee. A far rumore nel basket regionale è anche la notizia dell'esonero di coach Matteo Boniciolli, da allenatore dell'APU Udine. L'ufficializzazione è avvenuta ieri di prima mattina, poche ore dopo la brutta sconfitta dei friulani contro Cantù, che ne ha decretato l'eliminazione dalla Coppa Italia di A2. L'esonero di un allenatore che a Udine ha fatto la storia più di 20 anni fa e l'ha sfiorata due volte nelle ultime due stagioni non è una decisione da prendere a cuor leggero, ma tra l'ambiente APU e Matteo Boniciolli qualcosa si era incrinato già a giugno dopo il crollo fisico ed emotivo nella finale persa contro Verona. Il presidente Alessandro Pedone aveva pensato a un cambio immediato alla guida tecnica per il nuovo tentativo di scalata, poi però aveva scelto la continuità, una squadra costosissima, costruita però senza né capo, un playmaker credibile, né coda, un lungo atleta. Ha creato equivoci scoppiati alla prima difficoltà e sfociati nel derby perso a Cividale in casa dell'ex general manager Michalić. Per Pedone, la goccia che fa traboccare il vaso. La decisione viene congelata per il Covid di Boniciolli e la speranza che altri due interventi sul mercato, pesantissimi anche a livello economico, come gli innesti di Gentile e Monaldi, potessero rimettere insieme i cocci. Il tempo questa volta il coach triestino non ce l'ha avuto. L'inguardabile prestazione in Coppa contro Cantù, con l'inspiegabile decisione di mettere in campo un Gentile in condizioni impresentabili, gli è costata il posto. E ora starà al debuttante Finetti provare a raggiungere il sogno del presidente, quella Serie 1 cercata da almeno 4 anni, da quando in massima serie ci è andata Trieste. Al giovane senese l'ambizione non manca e neppure la preparazione. Solo il tempo potrà dire se avrà il polso per gestire un gruppo di veterani italiani con il leader a fine corsa e due americani scollegati e individualisti che giocano nello stesso ruolo. Sherrill, peraltro, sembra a rischio taglio. Servirebbe atletismo sotto canestro, ma l'APU non ha più visti per americani disponibili e può fare ancora solo un movimento di mercato fino ai playoff. Sta a Martelossi, direttore tecnico che non andrà più in panchina per non pesare su Finetti, scegliere i tempi giusti per le ennesimo cambio di linea. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Sono le 7:45, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani che oggi trovate in edicola. La messa in vendita tra gennaio e febbraio di 12 palazzi da parte della Regione per finanziare l'investimento necessario ad accentrare gli uffici triestini in Porto Vecchio è l'apertura e anche il capocronaca dell'edizione di Trieste del Piccolo, in cui si quantifica il valore di mercato degli immobili in 93 milioni di euro. L'operazione di trasferimento tra i magazzini 7, 10 e 118 dovrebbe costare circa 150 milioni di euro. Fotonotizia per i triestini che si sono distinti nel 2023 con nomi che nell'interno spaziano dall'astrofisica Anna Gregorio al tennis tavolo paralimpico Matteo Parenzan e che vengono scelti da persone note come la direttrice del Museo di Miramare Andrina Contessa e il regista Matteo Oleotto. Spazio poi per l'intesa tra SUGI e sindacati sull'aumento del tetto al numero dei pazienti su base volontaria a fronte di un riconoscimento economico per ogni paziente in più. Per la cronaca, gli open day per le iscrizioni ai nidi comunali e privati convenzionati e alle scuole dell'infanzia per il prossimo anno scolastico, open day programmati dal 16 al 20 gennaio a cui seguiranno le iscrizioni. Spesa, energia, carburanti, tutti gli aumenti del 2023, l'apertura del Messaggero Veneto su Carovita, l'inflazione costerà fino a 2.300 euro in più a famiglia, di spalla ai vigili urbani, a Udine, 84 multe al giorno per divieto di sosta e sotto alla tisana è nato il 500° bambino, obiettivo centrato per la continuità del punto nascita. A centropagina due ritratti, nella fotonotizia per il calcio il più votato dai tifosi, il portiere dell'Udinese Silvestri, su alla zebretta d'oro. A fianco il basket, tra Boniciolli e Apo è arrivato il divorzio, promosso il vice. In taglio alto, più pensionati che lavoratori, Udine fa i conti con l'anagrafe sul rapporto tra popolazione attiva e chi ha già smesso di lavorare, ne abbiamo parlato ieri. E anche sul Gazzettino, a Udine, più pensionati che lavoratori, il titolo in apertura, saldo negativo nella ex provincia di oltre 6.000 unità. Nella foto a centropagina, un campo di grano turco secco, clima impazzito, è stato l'anno più caldo. In prima pagina dell'inserto anche la sanità, personale, liste d'attesa, le sfide da vincere. Poi il richiamo per l'intervista al governatore Fedriga, che dice: Friuli protagonista in Europa. E il progetto Salute e Lavoro, un patto in fabbrica, Confindustria sigla il protocollo della regione di 6 obiettivi. In basso anche qui lo sport, Old Well West alla deriva, cacciato coach Bonicioli, e calcio, De Olofeo, nessun rischio, Sottil lo vuole preservare. L'edizione di Gorizia del Piccolo Riserva Aperture, capocronaca per un'intervista al sindaco Rodolfo Ziberna, in cui si parla di progetti e opportunità legati all'insediamento a capitale europea della cultura della città nel 2025 con Nova Gorizia. Tra le iniziative, quella di riservare una settimana da capitale a ogni comune del versante italiano e sloveno nel corso dell'avvicinamento all'appuntamento. Fotonotizia per le lettere dei giovanissimi a Babbo Natale imbucati nella cassetta, allestite in un negozio di giocattoli di Corso Italia, con richieste che spaziano dai regali ai desideri sentimentali. Per la cronaca, 133.000 euro non riscossi dal comune a causa delle multe non pagate, che corrispondono a una su tre. Capocronaca di Monfalcone, un'intervista alla sindaca Anna Maria Cisint con il resoconto di fine anno, che include l'avvio di una trattativa con Fincantieri per ridurre i subappalti e aumentare le assunzioni. Da Marina Giulia un reportage sulla parziale demolizione dell'edificio noto come ex stallone, bonificato dall'amianto. Tra i progetti per l'area, la costruzione di appartamenti e spazi per attività commerciali. La provincia di Pordenone salva le pensioni, l'apertura del Gazzettino per l'unica provincia del Friuli Venezia Giulia in cui il saldo è ancora attivo per chi lavora. Altro titolo a tutta pagina sotto per la morte di Roberto D'Alonzo, 28 anni, abruzzese, investito mentre rientrava a casa in Viale Grigoletti la sera di giovedì da un giovane automobilista che lo ha soccorso. Il ciclista lavorava come operatore sociosanitario in ospedale e stava rientrando a casa dopo il turno, espirato poche ore più tardi proprio al Santa Maria degli Angeli. A Sacile le casette a Palazzo Ragazzoni non piacciono a tutti. La segnalazione di cittadinanza attiva comune e soprintendenza per la sporcizia e il degrado intorno all'area in cui sono serviti cibo e bevande. In taglio basso richiami per l'intervista al sindaco Ciriani, che striglia la sua maggioranza, e per il questore di Pordenone, che assicura guardia alta sulla sicurezza. Sul Messaggero Veneto di Pordenone la foto a centropagina è per un ritratto di Lorenzo D'Alonzo, l'operatore sanitario di origine chietina, travolto e ucciso a Pordenone da un ragazzo che aveva appena terminato di effettuare le consegne per un ristorante. Di spalla Ciriani, tre mosse per ridisegnare la città e la mia giunta. E sotto il questore ringrazia i pordenonesi per l'aiuto alla polizia, anche qui in alto, più lavoratori che pensioni, il caso unico di Pordenone. Il Comune di Trieste informa che nella giornata di oggi la chiusura dei musei civici sarà anticipata alle 14 e sarà protratta nella giornata di domani, domenica 1 gennaio. A Trieste sarà accessibile il Museo Costantino e Mafalda Pisani della comunità greco-orientale di Trieste con il consueto orario dalle 9.30 alle 12.30. I visitatori saranno accolti dai soci e dai volontari del Touring Club Italiano. L'ingresso è gratuito. Per le sedi espositive dell'ERPAC, l'ente regionale per il patrimonio culturale, è prevista l'apertura dalle 10 alle 14 della mostra L'Italia e l'Ancienne Graphique Internationale a Trieste, al Magazzino delle Idee. Ancora a Trieste, accessibile dalle 10 alle 18, il dipinto seicentesco della Natività di Gesù nel Palazzo della Regione in Piazza Unità. A Gorizia le mostre Tra la terra e il cielo e i meravigliosi richiami delle Orsoline e le Orsoline. A Gorizia, al Museo della Moda, apertura dalle 9 alle 13. Stesso orario sarà osservato al Museo della Grande Guerra, mentre la Pinacoteca di Palazzo Hattem Spetzenstein aprirà dalle 10 alle 13. A Gradisca di Sonzo la mostra Sozza Spazzapan alla Galleria Regionale d'Arte Contemporanea Spazzapan, sarà aperta dalle 10 alle 13 a Passariano di Codroipo. La mostra Pasolini sotto gli occhi del mondo a Villa Manin sarà visitabile dalle 10 alle 14. Il Museo della Vita Condatina di San Vito al Tagliamento aprirà dalle 10 alle 13, lo stesso orario varrà per il Museo dell'Emigrazione di Cavasso Nuovo. A Pordenone il PAF, Palazzo Arti Fumetto Friuli, sarà aperto secondo il consueto orario dalle 10 alle 20. E adesso andiamo alle rubriche della TGR. Questa mattina sul canale televisivo Rai 3 andrà in onda il settimanale, eccone un'anticipazione. Torna settimanale in questa puntata, Capodanno sulla neve in Valtellina, da chi pedala per illuminare l'albero di Natale, alla fiaccolata notturna dei maestri di sci, all'igloo dove brindare. L'influenza e la carenza di alcuni medicinali nelle farmacie. Il presepe medievale vivente di Bevagna, pregiato e costoso, il caviale soprattutto made in Italy, primi produttori in Europa, secondi nel mondo. I monumenti in pasta frolla di un architetto milanese appassionata di cucina. I 90 anni di Sestriere scanditi dalle gare e dalle imprese dei campioni di sci di ieri e di oggi. La Big Vocal Orchestra di Venezia con le sue oltre 200 voci e il coro più grande d'Italia. Oggi nel settimanale 12:25 Rai 3. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda alle 11:30 con Biblos, in cui si parlerà del libro Le trasgressive, il coraggio di dire no di Giuliana Cadelli, dedicato a donne dell'antichità capaci di opporsi alle convinzioni e diventate padrone del proprio destino. Si parlerà anche della Biblioteca Florio di Udine, che custodisce volumi antichi e preziosi e racconta la storia di una famiglia che dal 700 e per due secoli ha fatto della propria collezione di libri un vanto da tramandare per generazioni. È tutto per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Walter Vidonis e Giampaolo Zucchi. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.